Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, intestato a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure andando sul sito internet della radio, che è ondarossa.info, sull'home page c'è alla voce sostieni per le modalità telematiche di sottoscrizione. Siamo a Visionari, l'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi in anticipo, ma finiremo anche un po' prima perché poi per Tracce di Cinema ci sarà un ospite in studio. Giovedì 28 luglio del 2016, per saperne di più sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale, basta consultare il sito della radio sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari. Sulla pagina Facebook di Visionari l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Iniziamo con Fabrizio Marini, regista del documentario Il rumore delle parole, storia di Giovanni Spampinato, giornalista. Fabrizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno Federico, buongiorno a tutti. Ho avuto modo di vedere il tuo documentario all'interno della rassegna Cinemario al Santa Maria della Pietà, al padiglione che è utilizzato per iniziative artistiche. Fabrizio, allora raccontaci un po' di questa, intanto per chi ci ascolta, la storia che hai raccontato nel tuo documentario. Sì, allora io ho raccontato la storia di Giovanni Spampinato, che era uno scrittore, un giornalista, scrittore, insomma, con, diciamo, anche con alcune velleità letterarie, diciamo così, molto colto, un ragazzo giovane che studiava ancora. Stiamo parlando degli anni a cavallo tra i 60 e i 70. Lui è stato assassinato nel 72, era corrispondente per il giornale L'Ora di Palermo, da Ragusa, e Ragusa era una realtà, soprattutto in quegli anni, insomma, molto, molto particolare, una realtà molto isolata, insomma, anche geograficamente. Sappiamo che Ragusa è una città, come dire, nell'entroterra, molto appartata, dove, diciamo così, regnava una sorta di quiete, ecco. E Giovanni diciamo andava un po' a scombussolare questa quiete, perché c'era un sistema, anche per quanto riguarda i suoi colleghi giornalisti, che era piuttosto, insomma, magari un brutto termine, però un po' asservito ai poteri della città. E lui, come poi del resto quella che era la linea editoriale dell'Ora di Palermo, come dire, andava a fare le pulci a questi poteri. Non parliamo esplicitamente di mafia, perché non si trattava proprio di questo, ma si trattava di tutta una serie di dinamiche che mischiavano potere economico con potere politico, e la politica in quegli anni era, diciamo così, c'era una contrapposizione molto forte tra la sinistra e la destra, ed erano gli anni soprattutto in cui in Europa erano in corso alcune dittature di destra, come quella dei colonnelli greci, ad esempio. E tra l'altro, scusa se ti interrompo, Giovanni era anche un militante politico, insomma. Esatto. Diciamo che proveniva da una cultura familiare molto schierata. Il padre era nel PC, era la testa del PC. Lui però non si è mai tesserato con il partito, però era un giornalismo di natura militante il suo, quello sicuramente. E nel momento in cui lui stava indagando su un omicidio che aveva un sacco di ombre, insomma, avevano trovato il cadavere di un ingegnere a Ragusa e si sospettava del figlio del presidente del tribunale di Ragusa. Lui voleva fare chiarezza su questa cosa che era stata insabbiata subito, diciamo così. Adesso la faccio breve, perché poi chi vorrà vedere il documentario c'è modo di capire un po' di più. In quel contesto è stato l'unico a voler andare a cercare questa verità che veniva in qualche modo insabbiata. E questo suo andare alla ricerca della verità da solo ha fatto sì che, non avendo protezione, come dire, è andato incontro a una fine tragica. È stato assassinato, l'assassino si è consegnato subito, però il vero movente di questo assassino non si è mai capito. Stiamo parlando del 1972, dell'ottobre del 72. Dopodiché il fratello ha intrapreso un percorso che è durato, diciamo, tutta la sua vita fino ad anni recenti, per mettere in luce questo cono d'ombra che era la sua Ragusa. E infatti io mi sono ispirato al libro di Alberto Spampinato, in cui si raccontano le vicende della sua città in quegli anni e soprattutto si raccontano le vicende di questo giovane giornalista che, come dire, nella sua ricerca della verità ha sacrificato la vita, come peraltro altri giornalisti dell'ora di Palermo sempre in quegli anni. Insomma, diciamo che il contesto era, adesso è un po' difficile da capire, però era un contesto molto complesso, insomma, ecco, diciamo così. Fabrizio, come sei venuto a conoscenza di questa vicenda e poi come è nata la spinta a raccontarla in immagini? Allora, io stavo lavorando con un amico, un direttore della fotografia originario di Ragusa, e un giorno mi parlò di questa vicenda di cui io non sapevo niente. Stiamo parlando di 4 anni fa più o meno, per cui ho iniziato a leggere un po' di cose e ho preso contatti con Alberto Spampinato, il fratello di Giovanni. Abbiamo fatto lunghe chiacchierate, ho letto il suo libro, mi è piaciuto moltissimo, per cui gli ho fatto questa proposta, insomma, ho detto proviamo a ricavarne un documentario. Poi ho scritto questo documentario. Dopodiché all'epoca non abbiamo trovato il modo, insomma, il canale per farlo, ecco, né i finanziamenti né una potenziale distribuzione, per cui la cosa è rimasta lì. Poi in anni recenti, sto lavorando da qualche anno per Rai Storia, ho proposto questa storia e loro hanno accettato, per cui abbiamo lavorato questo documentario e devo dire che ho trovato delle difficoltà perché non c'era materiale di repertorio, quasi niente, insomma, la notizia era stata data a un telegiornale, basta, insomma, questa era l'unica cosa che avevo trovato, per cui ho deciso di mettere in scena la città stessa, il contesto, raccontare il contesto attraverso i luoghi e attraverso la figura di Alberto, per cui la voce narrante, ci sono due voci narranti in buona sostanza, uno è quello del racconto del fratello e una invece è la voce di Giovanni Spampinato attraverso i suoi scritti, attraverso i suoi articoli, una voce prestata da, fra l'altro, da Paolo Briguglia, che è un attore abbastanza noto, siciliano anche lui, insomma. Questa è stata più o meno la vicenda e devo ringraziare Rai Storia che mi ha dato la possibilità di farlo, ecco, altrimenti sappiamo com'è difficile trovare finanziamenti, soprattutto per certe cose. Ecco Fabrizio, a questo proposito, che percorso ha avuto il tuo documentario e poi se ci sarà, se è fruibile in qualche modo, in qualche luogo? Sì, allora il percorso è stata la messa in onda nel canale di Rai Storia, è andata in onda penso 3-4 volte, ora non so bene, insomma, la prima volta più o meno cos'è stato attorno all'anniversario, se non sbaglio, insomma, comunque l'autunno scorso. Ed è fruibile nel sito di Rai Storia, all'interno di un ciclo di documentari che si chiama Diario Civile, si può trovare tranquillamente, si può vedere nel sito di Rai Storia. Senti, in base a queste 4 programmazioni che hai citato su Rai Storia, che tipo di riscontri hai ottenuto? La cosa più, diciamo, più non tanto inaspettata, ma la cosa che mi ha colpito di più è stata la telefonata, la sera stessa della messa in onda, alla fine ho ricevuto una telefonata, la telefonata di quello che all'epoca era il sostituto procuratore del Tribunale di Ragusa, colui che ha fatto le indagini per quanto riguarda il primo omicidio, quello di cui si stava occupando Giovanni Spampinato quando poi, insomma, è stato assassinato, e lui, insomma, si è lamentato, nel senso che a suo dire non ne usciva bene, ma in qualche modo è anche voluto il fatto che non uscisse bene, perché oggettivamente ha delle grosse responsabilità per quanto riguarda le indagini, perché il presunto assassino del primo omicidio era il figlio del presidente del tribunale, per cui c'è stata una sorta di cappa, insomma, di copertura di questa figura, e lui in qualche modo tra le righe me l'ha anche detto, insomma, diciamo che il fatto che io l'abbia messo in evidenza è stato per lui, insomma, poco gradito, ecco. Detto ciò, insomma, noi siamo Rai Storia, un canale abbastanza, si dice, di nicchia, no? Abbastanza piccolo, per cui gli ascolti sono quello che sono, però devo dire che poi c'è un riscontro delle persone, cioè di un pubblico affezionato, ecco, questo sì. E inoltre Alberto Spampinato ha una rete di giornalisti, insomma, si occupa ancora molto attivo anche, insomma, da un punto di vista dell'impegno civile, per cui c'è una distribuzione, insomma, c'è un passaparola da parte sua, ecco, per cui questo mi rassicura anche sulla vita che potrà avere questo documentario. Senti, c'è un sito internet, una pagina Facebook a cui fare riferimento? Allora, il sito è quello di Rai Storia, per cui semplicemente andate sul sito internet di Rai Storia, Rai, ora non ricordo se è Rai Storia o comunque rai.storia.it, e all'interno, tra i vari programmi nel palinsesto, c'è il Diario Civile, che è questo ciclo, e il Diario Civile potete vedere una serie di documentari appunto prevalentemente su mafia, criminalità organizzata, e tante biografie come quella di Giovanni Spampinato, ad esempio, e lo potete trovare lì. E più in generale sulla tua attività cinematografica? Allora, no, su di me non, insomma, io ho fatto già altre cose, c'erano già sentiti qualche anno fa per un altro documentario che avevo fatto sui fratelli Cervi, sulla storia dei fratelli Cervi, perché io poi sono originario di Reggio Emilia, per cui quella è una cosa anche che emotivamente mi coinvolgeva molto di più. E niente, al momento sto chiudendo proprio in questi giorni un altro documentario su la strage di Piazza della Loggia. Sì. Che andrà in onda sempre su Rai Storia, credo in novembre, adesso non è ancora fissata la data, però credo in novembre, e poi proseguo con altre cose sempre all'interno del canale, coltivando ovviamente anche progetti paralleli che sono sempre più difficoltosi, ma insomma quello diciamo che ho il privilegio di lavorare per un canale che mi consente di fare dei documentari, per cui questo già è una cosa buona. Bene, allora Fabrizio, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a te, grazie, ciao. A presto, buongiorno a tutti, ciao. Fabrizio Marini, per quanto riguarda la regia del documentario Il rumore delle parole, storia di Giovanni Spampinato, giornalista. Angelo Bianchi, regista del documentario L'educazione artistica, al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena. Angelo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie tante. Allora, raccontaci un po' questa educazione artistica, di cosa si tratta? Noi l'abbiamo chiamato così, un po' genericamente, film documentario, perché c'è un po' e un po', diciamo, di questi due aspetti del raccontare attraverso l'immagine in movimento. L'educazione artistica perché così è il racconto, diciamo, di un insegnante contemporaneo di storia dell'arte. Io sono un insegnante, tra l'altro, e insegno proprio questo, ma no, insomma, non è particolarmente autobiografico, evidentemente qualcosa c'è, ma qualcosa. Sì. E quindi un po' il lavoro dell'educazione all'arte, dell'educazione al paesaggio, alla nostra storia, al nostro paese, al nostro territorio, ma al nostro paese con la P maiuscola, l'Italia. E le difficoltà che un insegnante in genere ha della nostra società a dialogare con i ragazzi, a stabilire un rapporto, ma anche i risultati che poi si riescono a ottenere, no? la collaborazione con i ragazzi, anche trattando di questi argomenti. Poi noi viviamo in un territorio qui nella provincia di Latina e a Breivia soprattutto, che ha risentito di problemi enormi a livello di cura e tutela del paesaggio, non ci sono stati, insomma, sì. La città di Aprilia è cresciuta in maniera disordinata negli ultimi decenni e non la storia, cioè la storia di Aprilia ha compiuto 80 anni qualche giorno fa, a maggio, quindi figuriamoci un po'. Era proprio questa la sfida, tra virgolette, di dialogare con questi ragazzi, interloquire, farci anche delle passeggiate nel territorio, a vedere cose belle che abbiamo, ma anche cose brutte, quanto si è fatto di male, no? al nostro paesaggio, alla nostra storia, alla nostra identità, chiamiamola così. E quindi ecco, è questo excursus, e con gli aspetti anche buffi, anche rocamboleschi, che sono provocati dalle vicende, perché noi abbiamo girato anche dentro la nostra scuola, sì. Che è una scuola media, che è l'Istituto Pascoli di Aprilia, però abbiamo avuto anche la collaborazione degli liceali, perché Aprilia è una delle città più giovani d'Italia e ci sono tantissimi studenti, figli di emigranti italiani, ma anche figli di emigranti che provengono da altre parti dell'Europa e non solo. Quindi questo è l'aspetto più affascinante, no? Che è pieno di giovani a Aprilia, e abbiamo voluto coinvolgere una parte anche dei ragazzi del liceo Meucci di Aprilia. Ecco, questo è un po' in sintesi. Vado avanti da solo. No, volevo chiederti, Angelo, per la decisione di farne un documentario, com'è nata? Allora, io quando abbiamo presentato questo film documentario proprio l'anno scorso nella nostra aula magna, io cercavo disperatamente un qualcosa da dove prendere spunto per dire due parole su questa esperienza, e in realtà ho trovato insomma, mi è venuto di rievocare una scena a cui ho assistito fino a qualche mese fa, una scena che mi si presentava davanti agli occhi tutte le volte che io scendendo da Cori, dove abito. Cori è un paese antichissimo, più antico di Roma, eccetera. Allora, qual era la scena? Io percorrevo una strada che costeggiava i due licei di Aprilia e vedevo tutte le mattine, perché poi sembra una strada molto piena di macchine, eccetera, quindi avevo tutto il tempo di vedere questa fiumana di ragazzi, ragazze, che si recavano a scuola con le loro espressioni, atteggiamenti, gesti, modi più vari, più curiosi, più simpatici, più divertenti, chi con gli occhi, la testa china sui loro cellulari, chi a scherzare, chi già a fumare una sigaretta, chi distratto, chi assonnato, insomma. Non l'ho fatta più quella strada, perché in realtà poi sono arrivato spesso tardi a scuola, il preside mi voleva cacciare, quindi ho dovuto cambiare. Però è nata da lì la cosa, nel senso che questi ragazzi, tutti in fila, ragazzi che si recavano a scuola, mi hanno ricordato, rievocato per paradosso, così, un po' riferendoci al mito, perché Virgilio racconta che Enea sbarcò nel tratto del Tirreno che bagna le nostre coste, e perché cercava Enea un'altra vita, un suo futuro, no? Che fuggiva dalla sua città in fiamme. Ecco, questi ragazzi un pochino mi hanno rievocato quasi quest'epica di questi ragazzi che la mattina vanno a scuola per imparare, sostanzialmente, no? Per andare incontro al loro destino, ai loro destini, e io come insegnante che seguivo la direzione opposta, perché la mia scuola è diversa, un po' lontana da loro, allora ecco, mi chiedevo quanto io sono a altezza come insegnante delle aspettative di questi ragazzi, quanto sono a loro utile ecco, va detto così un po', rimasticare queste cose, queste idee. Allora mi sono posto la cosa: ma perché non proviamo a raccontare con le nostre forze, le nostre possibilità, proprio questo, quanto noi adulti riusciamo ad essere utili ai ragazzi? Educarli forse è la parola troppo alta, impegnativa, ma ecco, non fargli vivere solo il presente, solo la contemporaneità, perché i ragazzi, ahimè, queste generazioni ultime, mi sembra di capire che vivono troppo la contingenza, nel senso che la mattina una cosa è bella, nuova, il pomeriggio comincia a invecchiare, la sera è morta. Ma quindi non c'è forse il senso del passato, della memoria, no? Perché i ragazzi ritengono probabilmente la memoria forse male trasmessa nelle scuole, cose puzzolenti, cose noiose, cose troppo lontane, cose che non ci appartengono. E invece io penso proprio di no. Certo, il futuro, chi lo prevede il futuro? Nessuno ha la palla di vetro, però non so se ritrovare oppure capire, conoscere, riflettere su quel che è stato e su quel che è in genere, non solo per il paesaggio dell'Italia, per le opere d'arte e tutto il resto, ma in genere, ecco. Allora da questa sorta di così domande, riflessioni, chiamiamole pure così, questa sfida a poter interloquire con questi ragazzi giovanissimi di Aprilia, perché Aprilia mi sembra un po' l'immagine dell'Italia contemporanea, mi pare che sia, senza fare del moralismo, ma ecco, si è persa un po' la nostra storia, non la conosciamo, forse anche un problema di ignoranza veramente, no? Soprattutto di chi dovrebbe conoscere la nostra storia e poterla trasmettere. Allora ecco, l'ignoranza è questa, e ecco, ripeto il termine, questo cortocircuito, chiamiamolo così, tra ragazzi così giovani che vivono nella città così giovane, senza storia, perché Aprilia, come è nata, è stata bombardata e distrutta dagli anglo-americani durante la guerra, quindi quando si parla di Aprilia si parla solo della distruzione di Aprilia, ma in realtà ci sono belle associazioni, le scuole funzionano abbastanza bene, e poi questa cosa meravigliosa che è piena di giovani. Ecco, allora da queste contraddizioni, da questi poli così opposti, abbiamo voluto raccontare, e alla fine del documentario abbiamo anche reso un omaggio all'Italia, al paese tutto intero. Ecco Angelo, a questo proposito volevo chiederti: qual è il presente di una materia come l'educazione artistica, sia rispetto agli alunni che ti trovi davanti, sia rispetto all'istituzione scolastica? Cioè come viene considerata? Sì, sì, sì. Ma guarda, io ovviamente che non parlo per esperienze personali, io sono fortunato perché vivo in una scuola, questo istituto comprensivo, che è una scuola media, e dove c'è un preside che invece è molto attento a queste cose, anzi noi abbiamo voluto realizzare questo documentario anche con l'aiuto economico della scuola, cosa che mi sembra abbastanza miracolosa nel panorama solo della provincia di Latina ma italiano, e poi con l'aiuto del comune ovviamente. Mi sembra che anche le colleghe, i colleghi, insomma, si lavora, si collabora, in questo siamo attivi, particolarmente attivi. Però se lo devo dire più in generale, se devo parlare più in generale, non mi voglio così legare alla, così unire anch'io alla mentela generalizzata, però certo noi siamo figli di questi uomini del passato, abbiamo avuto dei padri che ci hanno lasciato delle cose di straordinaria bellezza e importanza, e forse noi non ne siamo così degni, non ne siamo ancora degni, e allora bisogna, ecco, ricominciare, o non lo so come dire, bisogna con le nuove generazioni, perché sono loro, cioè c'è poco da fare, ed è un lavoro che tocca agli educatori, alle educatrici, alla scuola, riappropriarsi, io non voglio usare dei termini banali, altri non mi vengono, però ritrovare una storia nostra comune, che è la storia europea, che è la storia poi di tutta l'umanità, ma insomma ritrovare un legame con qualcosa che ci dà riconoscibilità, che ci dà identità. Certo, ora tutto è globalizzato, tutti si muovono con grande facilità, perfetto, bellissimo, eccetera, ma guai a dimenticare, a non conoscere soprattutto le nostre origini, da dove proveniamo, insomma. È un lavoro delicatissimo e importantissimo, ma io credo fondamentale. Io credo fondamentale, e con tutta la fatica che da insegnante io provo, tutte le difficoltà, no? Però questa è una cosa a cui io tengo molto, insomma, spero che, ecco, con i ragazzi almeno riusciamo in questa, capirci, via, a non avere differenze anagrafiche, anche se ci sono, e come, ma almeno sentimentalmente, emotivamente, diciamo così, stabilire un rapporto più vicino. Questo è. Senti Angelo, in chiusura, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più sul documentario? C'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è la pagina Facebook e anche su YouTube, quindi c'è il trailer, e l'educazione artistica, Angelo Bianchi, insomma, ora tutto l'indirizzo non te lo so dire, però si può trovare la scuola di Aprilia, insomma, ecco, si ritrova, bene, non bene. Credo che ci siano problemi in questo. Ok, allora io ti ringrazio Angelo, un abbraccio e magari a risentirci per le prossime novità. Come no, grazie a voi, buon lavoro, buon proseguimento. Ciao Angelo, ciao. Grazie. Angelo Bianchi, regista del documentario L'educazione artistica. Questo è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa .info, sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, e sulla pagina Facebook di Visionari. Con grande puntualità Andrea Vertaglio, lo aspettavo proprio per le 14, coautore del documentario Presi per il PIL, che ho avuto modo di vedere lo scorso anno al Clorofilla Film Festival. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Tutto bene? Sì, benissimo, sono anch'io stupito dalla mia puntualità. Tutto bene, grazie. Allora, un documentario del 2014, ma che ci dice molto sul presente, anche un po' atemporale come lavoro, perché ci parla di alcuni meccanismi economici. Allora Andrea, ci spieghi un po' questo lavoro? Sì, il film si intitola Presi per il PIL e già dice molto, secondo me, il titolo. Appunto, un film ideato da Lorenzo Fioramonti, cioè l'idea è nata da Lorenzo Fioramonti, che è un accademico romano che però lavora in un'università in Sudafrica, e come è stato autore di questo film, la cui regia è stata curata da Stefano Cavallotto, che è un documentarista molto in gamba di Cuneo. Presi per il PIL in pratica contesta il fatto che il PIL, quindi il prodotto interno lordo, venga preso come metro di misura del nostro benessere. Quindi, come dicevi giustamente tu, vale quest'anno, vale anche fra 10 anni probabilmente, ed è stato sicuramente molto valido in questi ultimi decenni, perché abbiamo spesso visto come le politiche economiche, sociali, eccetera, siano spesso basate sulla crescita del prodotto interno lordo. Perché lo contestiamo con questo lavoro? Perché non ha senso, ripeto, misurare la qualità della nostra vita con il PIL, perché se ci pensate, quando installiamo un allarme perché non ci sentiamo sicuri, quando compriamo psicofarmaci perché siamo depressi, quando aggiustiamo l'auto perché abbiamo fatto un incidente, stiamo facendo crescere il PIL, ma questo non è appunto un indice di un miglioramento della nostra qualità di vita. Quindi questa è l'idea, insomma, come è partito il tutto. Ovviamente dici come si fa, il film non è un tentativo di dare parametri alternativi al PIL, questo sì. Non ci interessa, almeno sì. Non nel film. Siamo andati a vedere persone che vivono al di fuori di certe dinamiche, cioè che non sono completamente schiave della necessità di consumare o di guadagnare chissà quanti soldi per vivere decentemente. Andrea, ecco, quest'idea di cercare persone che vivono al di fuori di questo meccanismo, come è nata e dove vi ha portato? Allora, io adesso meno, ma negli scorsi anni sono stato molto in contatto con il mondo della cosiddetta decrescita, sì. Decrescita felice, in sì. particolare il movimento di Maurizio Pallante, fondato da Maurizio Pallante. Quindi io, avendo a che fare con questa realtà, avevo molti contatti interessanti in questo senso, quindi le storie da raccontare, gli esempi da mostrare di persone appunto che vivono in modo alternativo, ma non va bene dire così perché pensi al fricchettone, al pazzo, no, soltanto persone appunto che si autoproducono alcuni dei propri alimenti o che si arrangiano a vivere anche se magari hanno perso il lavoro, hanno scelto di lasciarlo, insomma di esempi ne avevo tanti. In origine dovevano essere 5 storie in 5 paesi europei, poi sì. Essendo stato un lavoro quasi completamente autoprodotto appunto in ogni senso, abbiamo raccontato 4 storie in Italia. Queste storie sono di persone che appunto ho avuto modo di conoscere, di persone che siamo andati a raggiungere per appunto in modo da documentare un po' la loro quotidianità e riportare la loro testimonianza. Senti Andrea, ecco, dicevi in un caso di chi si autoproduce gli alimenti di cui si nutre, ecco, quali sono in questi 4 esempi, in queste 4 testimonianze, gli esempi virtuosi che avete avuto modo di conoscere? Tutti, ovviamente. Allora, ce ne sono alcuni che sono più incentrati su questo discorso, tipo la storia di Roberto in Sardegna, della sua famiglia, mostra più delle altre forse come la capacità di condurre un orto, oltre che per hobby, anche per appunto autoprodursi del cibo, sia molto interessante se condotta in un certo modo. Quindi gli ortaggi, ovvio, sono l'esempio più classico e è più facile, però sì. Abbiamo anche la storia di una famiglia che produce formaggio di capra in una valle sopra Cuneo, e quindi anche lì ovviamente uno non può mangiare solo formaggio di capra, però è stato un altro esempio di autoproduzione. Loro sì. Vendono questo formaggio, infatti la cosa interessante lì è che emergono anche le contraddizioni che ci si trova a vivere quando si fanno certe scelte, cioè ad esempio Giorgio e Marta, questi produttori di formaggio, dicono che okay, noi siamo qui, viviamo qui, abbiamo fatto queste scelte, ma dobbiamo scendere a compromessi, dobbiamo vendere il nostro formaggio magari al negozio chic di Torino, nel loro caso. Quindi abbiamo cercato di far emergere anche non solo il fatto che non ci si può autoprodurre tutto, nemmeno il cibo, ma che, come dicevo, le scelte radicali non le si possono neanche fare sotto certi aspetti, quindi è tutto un cercare un equilibrio che ti porti appunto a semplicemente a vivere un po' meglio, a vivere un po' meno schiavo della macchina dei consumi, e appunto ognuno lo può fare a modo suo e per come può, perché ovviamente certo. Se uno vive in città fa più fatica a farsi l'orto o altre cose, però con i ragazzi invece di un gruppo MDF, Decrescita Felice di Torino, abbiamo fatto vedere che anche in città si possono avere stili di vita più sostenibili, diciamo così, anzi la città secondo me sotto certi aspetti offre anche più possibilità sotto alcuni punti di vista che la campagna. E più in generale anche con la possibilità di creare comunque una rete rispetto a chi fa questo tipo di scelte. Sì, quello è fondamentale. Ci si trova volenti o nolenti ad entrare in contatto con persone che fanno scelte simili, perché basta che fai un corso di un certo tipo, che partecipi a una riunione, che fai parte di un gas, altre cose di questo tipo, ti trovi a creare delle reti con persone che hanno bene o male il tuo punto di vista e con cui spesso, non sempre, riesci ad avviare delle relazioni molto interessanti, degli scambi, ci si insegna a vicenda cosa fare, come fare, ci si supporta in vari modi. E appunto una cosa molto importante, perché anche la convivialità è un aspetto fondamentale nella contestazione del PIL, perché quando ci si unisce, ci si scambiano le cose, ci si prestano le cose, si tende anche a consumare, a sprecare di meno, quindi certo. È una conseguenza, è una caratteristica fondamentale di tutto il discorso. Andrea, senti, per saperne di più sul documentario e sulla vostra attività più in generale, in rete dove si può cercare? C'è un sito, abbiamo creato un sito dedicato al film, che è presiperilpil.org, che aggiorniamo continuamente, su cui appunto sul calendario mettiamo tutte le proiezioni che continuiamo a fare, perché appunto, come dicevi, questo film è uscito 2 anni fa, ma vedo con piacere, anche questa chiacchierata lo dimostra, che l'interesse continua a esserci nei suoi confronti, e quindi continuano ad esserci proiezioni in diversi cinema, soprattutto in Italia ma anche all'estero. Ci hanno chiamati, hanno proiettato il film in Germania, in Francia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti, e quindi se volete vedere presiperilpil.org c'è l'aggiornamento costante delle proiezioni, se nella vostra zona magari potete dargli un'occhiata. Andrea, è stato un piacere, io ti abbraccio e speriamo a presto. Grazie a voi e buon tutto, alla prossima. Anche a te, ciao Andrea. Andrea Bertaglio, coautore del documentario Presi per il PIL. E ritroviamo Alessandro Piva, questa volta in veste di regista di un documentario dal titolo Due Sicili. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, saluto a tutti. Tutto bene? Tutto bene, sono nel mercato di Catania, alla pescheria, e sto per mangiare uno spaghetto con le sarde, sono meglio di voi. Allora, Due Sicilie, cosa sono le Due Sicilie? Le Due Sicilie sono la Sicilia di ieri e di oggi, due visioni di questa meravigliosa regione che, grazie a un mestiere a volte duro come quello del cinema, in certi casi arrivano delle grandi opportunità. Quella per esempio di Due Sicilie, per me di esplorare una regione che conoscevo poco e niente, e che a partire dal repertorio del Luce molto forte, molto bello, e immagini di De Seta, di Saitta, di altri grandi cineasti del passato, ho rielaborato tornando nei luoghi che hanno immortalato loro con le loro pellicole prodigiose, e sono andato a vedere continuità e differenze, e devo dirti Federico che la sorpresa è che questa regione, al di là delle cose vistose, i grattacieli o che ne so, le grandi industrie, non è cambiata così tanto in 60-70 anni. C'è la stessa energia, lo stesso amore per la terra, per i prodotti dell'agricoltura. Io ho trovato un filo di continuità che mi ha molto molto appassionato. Senti, com'era nata l'idea? L'idea è nata lavorando con Luce e assaggiando già su un mio lavoro precedente, di cui credo abbiamo già parlato tempo fa, che è Pasta Nera. Sì, sì, sì. Io ho pensato di proseguire la collaborazione con Luce, che era stata molto incoraggiante, e loro mi hanno proposto di dare un'occhiata nel loro enorme repertorio, e a quel punto io, che amo il sud, il meridione, ho pensato di rielaborare le immagini che loro amano siano violentate. Questa è una cosa molto bella dei funzionari e dei ricercatori del Luce, cioè loro non cercano la filologia, sì, cercano invece, evidentemente sono cose che fa la grande storia, altri programmi, invece dagli autori cercano un rapporto più forte, più più nuovo con il loro repertorio. Mm-hmm. E quindi in questa voglia di collaborazione ulteriore è nato un progetto che partisse appunto dal repertorio, ma elaborandolo abbiamo insomma un po' manipolato le loro immagini e le abbiamo per certi versi violentate, inserendo spesso dei cortocircuiti tra ieri e oggi, per cui le immagini in bianco e nero degli anni 50 si alternano alle volte con effetti stupefacenti con le immagini contemporanee a colori. Mm-hmm. E rispetto ai materiali d'archivio hai avuto belle sorprese? La sorpresa più grande forse è che è anche una conferma per altri che diranno che dico una banalità, ma la forza delle immagini di De Seta, su quella sua serie di documentari molto famosa girata negli anni 50 in Sicilia è veramente incredibile. Ho coccolato fotogramma per fotogramma di De Seta, di alcuni suoi documentari sulla pesca del tonno e sulla mietitura, e devo dirti che sono di una modernità straordinaria. Un uomo da solo 60 anni fa ha anticipato di decenni il cinema internazionale, lo sguardo surreale, al punto che le nostre immagini, devo dire, in certi casi impallidiscono. Senti, hai detto non è cambiata tanto in questi decenni. Quali sono i punti di contatto e invece le divergenze tra l'oggi e lo ieri? Ma guarda, parto dalle seconde. La divergenza più sostanziale, più importante, è sicuramente il fatto che in certe attività umane è cambiato proprio più che l'approccio, cioè proprio c'è alcune modalità. Penso alla mietitura che De Seta ha immortalato, dicevo prima, splendidamente nella Sicilia centrale, centro ovest, negli anni 50. Lì c'erano interi paesi, famiglie intere che si dedicavano alla mietitura, e centinaia di persone. Oggi quel lavoro è svolto da 2-3 persone con la mietitrebbia. La differenza lì salta immediatamente all'occhio. Ma devo dirti, a parte questa questione di numeri, di forza in campo, non è cambiato l'approccio a questa terra fortissima, fatta anche di silenzi, di attese, di controra, di ricerca dell'ombra. Mentre invece per esempio in altre cose, penso alla raccolta delle arance per esempio, c'è un senso di continuità incredibile anche dal punto di vista della lavorazione industriale. Cioè la raccolta dell'arancio che ho visto e documentato come viene fatta adesso nel 2016 è pressoché identica anche dal punto di vista industriale a quella dei repertori degli anni 50. Da questo punto di vista la sorpresa è enorme. Mm-hmm. Non c'è una macchina nuova, solo il muletto ha sostituito l'uomo nel spostare le arance da un padiglione all'altro nella distribuzione, ma tutto il resto è rimasto identico. Allora, il tuo lavoro è stato a Taormina e dopo che succederà? È stato a Salina. È stato presentato a un pubblico internazionale a Taormina, è una visione particolare per gli operatori, e ora sono a Catania, ti dicevo, e stiamo andando a Marzamemin, dove c'è il cinema di frontiera. Sì. E lo presenteremo domani sera. Dopodiché andremo anche a Donna Fugata e altrove in Sicilia. La Sicilia è una terra ricca di attenzione al cinema e quindi di festival, è un luogo molto suggestivo e c'è molta attenzione per questo lavoro. E poi tocca a Luce, che lo distribuirà, cercare di dargli una visibilità che realisticamente non sarà enorme, ma vedi, il compito certe volte del nostro lavoro è quello di fermare dei documenti, no? Sì, io sì. Molto umilmente spero che questo documentario riesca nella sua parte più contemporanea ad aver fermato anche dei piccoli documenti sull'oggi, che una volta stratificati, sì, non è questo il momento ovviamente, tra 30, 40, 50 anni toccherà ad altri studiosi e osservatori guardare per capire com'era la vita in quest'isola agli albori del nuovo millennio. Questa è l'ambizione di questo film, e poi ci sarà una piccola tiratura di DVD, immagino, e poi vediamo che succede. C'è una pagina Facebook del documentario, tua o più in generale? Guarda Federico, no, per questo film ho pensato, perché iniziano a essere tante le pagine Facebook dei miei progetti, dei miei lavori, e ho iniziato a pensare che forse conviene semplificarci la vita, e quindi c'è la mia pagina Facebook personale, okay, Alessandro Piva, dove chi ha voglia di vedere il film o di trovare l'occasione di poterlo incontrare avrà notizie, ed è forse la cosa più giusta. Bene. Allora Alessandro, è sempre un piacere, speriamo di risentirci presto, un abbraccio. Un abbraccio a te e al tuo pubblico, grazie per il lavoro che fai, viva il cinema. Viva il cinema, ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Piva, regista del documentario Due Sicilie. Dalla Sicilia ci spostiamo in Sardegna, siamo in collegamento con Massimo Lunardelli, regista del documentario L'anarchico Tommaso Serra, appunti per un film. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille e buona giornata a tutti. Allora, ho avuto modo di vederlo su Italian Doc, mi ha subito incuriosito questa storia, raccontacela un po', Massimo. Ma Tommaso Serra è un personaggio che anch'io ho conosciuto da poco, da qualche anno, ho approfondito un po', è non è stato un teorico dell'anarchia, è uno che ha attraversato il Novecento, perché è nato nella cifra tonda, è nato proprio nel 1900 in Sardegna, in un piccolo paese al centro della Sardegna che si chiama Barrali, ed è morto nel 1985, insomma una vita lunga, abbastanza intensa, si è fatto la guerra civile di Spagna. Dicevo, sì, non è un teorico dell'anarchia, è uno che l'anarchia l'ha vissuta, l'ha praticata, insomma, no? Noi abbiamo raccontato questa storia in un documentario molto breve, insomma, dura una ventina di minuti, andando un po' a cercare i due personaggi che in qualche misura gli sono stati in modo diverso più vicini, una persona che in qualche modo ha raccolto i suoi libri e gestisce oggi un archivio a lui dedicato con testi importanti sull'anarchia e sull'anarchismo, ma non solo, è un'altra persona che invece lo ha, come dire, incontrato, lui dice, più di pancia che di testa, che ha vissuto con lui soprattutto nella parte finale della sua vita. Ecco, semplicemente noi abbiamo cercato un po' così, il sottotitolo, come dire, spiega bene, no, quello che abbiamo fatto, appunti per un film, qualche cenno per cercare di non perdere la memoria, diciamo così, no, di personaggi del genere. Mm-hmm. Massimo, come sei venuto a conoscenza di questa personalità? Attraverso un giro molto molto strano, perché io allora abitavo ancora a Torino, stavo raccontando un libro per un libro la vicenda di 10 anarchiche italiane e scoprivo che, insomma, in qualche misura molti di questi testi erano appunto conservati in questo archivio in Sardegna, e così insomma, poi per ragioni completamente diverse sono venuto a viverci sull'isola e ho approfondito la storia di questo personaggio, personaggio di, come si può dire, di stampo antico, no? Se posso raccontare due aneddoti molto piccoli, no, molto brevi, che ci dicono bene chi era. Lui se ne va nel 1946, di ritorno dalla Spagna, è tornato poi in Sardegna, eccetera, parte dall'isola, prende la nave, va a Livorno per andare al primo congresso anarchico di Carrara, e tranquillamente, come se nulla fosse, lui si è fatto Livorno-Carrara a piedi, sono circa 300 km, un camminatore. E il secondo aneddoto molto carino è che io non so dove sta, come dire, dov'è l'onestà delle persone, no? Cioè, se l'onestà è un valore, fatemi banalizzare, di destra, di sinistra, insomma, non si capisce più tanto bene, no? Siccome lui, appunto, combattendo in Spagna, aveva intrecciato una infinita rete di rapporti con anarchici di mezza Europa e anche americani, tornato al paese nel dopoguerra si faceva inviare le medicine, il chinino, la penicillina, dai compagni americani, perché qui non c'erano, soprattutto per i poveri, insomma. E mi ha colpito molto che lui questa cosa la distribuisse, queste medicinali le distribuisse gratis ai suoi compaesani attraverso il comune. Io credo che 99 persone su 100 le avrebbero rivendute anche a un prezzo onesto, se vogliamo, no? Ma le avrebbero rivendute. Ecco, sono questi due segnali che mi hanno fatto pensare un po' di questi personaggi sicuramente di un altro mondo, ecco. E nel suo paese natio c'è qualche tipo di memoria rispetto alla sua figura? Sì, non tantissima c'è. Sono cose che inevitabilmente un po' si perdono. Ovviamente lo ricordano, non gli hanno mai dedicato una strada o una via, banalizzando, insomma, certo. Non è che sia necessario. Però quando noi l'abbiamo presentato a Barrali questo documentario, di gente ce n'era tanta anche a Cagliari, perché alla fine poi molti partivano, c'è tutta più di una generazione che andavano, insomma, da lui anche semplicemente così per stare là. Una delle cose belle è che nelle foto che ho visto aveva un barbone incredibile, il barbo era uno dei suoi soprannomi. Una delle cose belle che ho visto nelle foto è che era sempre circondato da giovani, e questa è una cosa interessante, e quindi, insomma, qui è molto conosciuto. Ma lui aveva una serie di rete di relazioni in mezzo mondo, si scriveva anche con Pertini, aveva rapporti, insomma, lunghi, dettati da una permanenza all'estero infinita, perché non solo la Spagna, lui all'estero c'era andato a lavorare in Francia, in Svizzera, in Belgio, ed è lì che in qualche modo era entrato in un circuito internazionale. Senti, quali sono gli elementi più interessanti del suo pensiero libertario, che hai detto è stato molto praticato, però insomma ha anche scritto qualcosa? Beh, non ho scritto praticamente nulla, scriveva dei Tazebao, insomma. lui ha tentato di fare in Sardegna al suo ritorno una collettività per persone, per anarchici, per compagni, come si diceva all'epoca, in difficoltà, e la voleva fare, ma è stato un po' un fallimento, devo dire, ma la sua idea era farla sul modello, appunto, delle collettività che aveva visto in Spagna. Nei suoi scritti, nelle sue lettere, nel suo testamento anche, sono un po' di quei personaggi che in qualche modo sono un po' a metà strada, un santo laico, no? Cioè questa roba del mi faceva ricordare Davide Lazzaretti o questi personaggi qui, insomma, la terra di tutti, l'acqua di tutti, pace, amore, libertà, quindi insomma una visione un po', non mi viene il termine giusto, ma quasi mistica, ecco, diciamo così. Senti, visto che hai realizzato gli appunti, che ne sarà poi? Ah, questo non appartiene a me dirlo, deciderlo. Magari hai deciso, hai pensato o stai pensando a dilatare questo lavoro, ampliarlo in qualche modo? Francamente no, no. Sono su altri sentieri, ma... No, perché credo che forse questa era un po' la giusta misura. Okay. Una degli appunti che ci hanno fatto, dei rimproveri che ci hanno fatto su questo documentario che tu hai visto, è che forse bisognava ampliare la cerchia degli intervistati, no? Andare a sentire più testimonianze, ma fu poi stata poi una scelta anche così di restringerlo alle due persone che gli sono stati più vicine. Sì, insomma, sì, sì, sai. Senti, e per vederlo, per saperne qualcosa in rete, c'è uno spazio? Noi non abbiamo fatto una distribuzione tradizionale. Sì. Possiamo organizzare ovviamente proiezioni pubbliche se qualcuno lo desidera. Chi lo desidera può richiederne una copia del film scrivendo a me direttamente o scrivendo alla piccola casa di produzione che l'ha realizzato, info@mufilm.it, e facciamo una distribuzione di questo tipo, perché francamente non è pensabile, non è un tipo di lavoro che si presta, come dire, a distribuzioni di massa. Non l'abbiamo messo, l'abbiamo messo privatamente su Vimeo, ma non abbiamo ancora pensato a una visione pubblica. Benissimo. Allora Massimo, le indicazioni ce le hai date, un abbraccio e speriamo di risentirci. Un abbraccio a voi e grazie, buone cose. Anche a te, buon lavoro, ciao. Massimo Lunardelli, regista del documentario L'anarchico Tommaso Serra, Punti per un film. E anche quest'anno troviamo Carlo Chatrian, direttore della 69esima edizione del Festival del Film Locarno, dal 3 al 13 agosto. Ben ritrovato su queste frequenze, Carlo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, uno dei festival storici più importanti, lo schermo all'aperto più grande d'Europa, raccontaci un po' di questa, della storia, brevemente della storia di Locarno e poi delle caratteristiche di questa edizione, Carlo. Sì, guarda, il rapporto è anche molto stretto, perché Locarno, che nasce nel 1946, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nasce per volontà di alcuni intellettuali proprio di area milanese, con l'obiettivo di far vedere dei film che erano difficili da mostrare in Italia, tra questi c'era Ladri di biciclette. E nel corso della sua lunga storia Locarno è sempre stato un po' una vetrina per presentare dei film o scomodi o comunque che arrivavano un po' prima degli altri, a raccontare il cambiamento del mondo e il cambiamento del cinema. È stato negli anni 60 con i cinema che venivano dall'est, penso alla nuova onda ungherese, quella polacca, Milos Forman è stato proprio scoperto qui, e poi via via nel corso degli anni con il nuovo cinema americano, i primi film di Spike Lee e Jim Jarmusch, con il cinema iraniano, Jafar Panahi e Abbas Kiarostami, e poi via con l'ultima onda cinese. Ecco, il programma di quest'anno riprende un po' questo spirito, questo DNA di Locarno come festival di scoperta, cercando di mostrare opere di esordienti in ogni sezione, dalla Piazza Grande, questa fantastica arena all'aperto per 8.000 persone, fino al concorso internazionale e alle altre sezioni. Sì. Ci sono delle sezioni particolari quest'anno? C'è un filo conduttore? Dici un po'. Ma il programma, la struttura del programma del festival non cambia, non è cambiato da quando sono arrivato. Prevede due concorsi, uno principale, uno per opere prime e seconde, proprio per porre l'accento su questa su questo cinema giovane, un concorso cortometraggi e un fuori concorso. Il tema conduttore è sempre difficile poi riunire una varietà di film che vengono scelti per il loro valore artistico in uno o più temi. Mi sembra però di aver notato quest'anno che diversi film provenienti da parti diverse del mondo e da registi che sono di generazioni diverse si soffermavano a guardarsi indietro, cioè cercavano nella storia del paese di provenienza delle radici, dei motivi, magari per leggere meglio il presente. Ecco, questo rapporto tra passato e presente mi sembra uno degli elementi che possa contraddistinguere l'edizione di quest'anno. L'altro elemento è sicuramente un ritorno importante al genere, a utilizzare i codici del genere per poi sviluppare dei racconti che sono del tutto personali. E qui l'esempio che mi viene in mente è il film con cui abbiamo deciso di aprire il programma di quest'anno, un film in Piazza Grande di un giovane regista inglese con un cast importante, Glenn Close, Paddy Considine e soprattutto Gemma Arterton, che utilizza il codice del film di zombie. Però è molto più che un film di zombie, un film che parla anche del presente, della difficoltà che abbiamo a vedere il diverso, ecco. Bene. Senti Carlo, per il programma i riferimenti ci sono tutti in rete, giusto? Sì, il festival ha, come insomma così, ormai una comunicazione a 360 gradi dal sito web che è www.pardo.ch. Pardo è l'animale, il totem del festival e anche il suo brand, ai canali social, e quindi Facebook e Twitter, addirittura un canale tematico che è ritrovabile appunto sia su YouTube sia sul sito stesso. Il festival inizia il 3 agosto e va avanti fino al 13, però già il 31 agosto e il 2 ci sono due serate che noi chiamiamo di pre-festival, completamente gratuite, proiezioni in Piazza Grande, e iniziamo con un omaggio ad uno dei miei eroi dell'infanzia, Bud Spencer, e faremo vedere, lo chiamavano Trinità. Benissimo, allora Carlo, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie dello spazio e vi aspettiamo a Locarno. A presto, ciao Carlo. Arrivederci. Carlo Ciatrian, direttore della 69esima edizione del Festival del Film Locarno dal 3 al 13 agosto. E ritroviamo anche Stefania Bianchi, direttrice della 14esima edizione del Guerre e Pace Film Fest a Forte San Gallo di Nettuno, in pieno svolgimento, perché è cominciato il 25 e terminerà il 31 luglio. Stefania, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Un saluto a tutti. Allora, un festival che seguiamo praticamente ogni anno, raccontiamo un po' quali sono le sue caratteristiche a partire dal titolo Guerre e Pace, Stefania. Sì, è una rassegna cinematografica, come hai detto, insomma oggi è la quarta giornata, abbiamo iniziato il 25 luglio e si conclude il 31 luglio al Forte San Gallo di Nettuno. Ogni anno un tema diverso, il tema di questa edizione è Esodi di guerra, perché vogliamo proprio raccontare storie di uomini e donne in fuga da guerre, da vite difficili, dalla fame, ma anche storie di integrazione, come insomma ci sono anche dei film e dei documentari che ci raccontano anche quindi uno sguardo all'integrazione, soprattutto alle necessità di un dialogo tra le diverse culture. Quante le opere che sono in cartellone, Stefania? Allora, Guerra e Pace Film Fest è una rassegna molto particolare, perché questo viaggio lo prevede sia con la presentazione di film, e ci sono naturalmente 7 film in rassegna, ma anche attraverso libri, quindi la presentazione di libri, e documentari in collaborazione con Luce Cinecittà. Abbiamo aperto con Fuoco a Mare, il film di oggi, giovedì 28 luglio, è Terraferma di Emanuele Crialese, quindi si farà proprio un percorso anche, e devo dire sono contenta, attraverso il cinema italiano. Senti, rispetto al pubblico, visto che comunque è una rassegna curiosa, insolita rispetto alle arene estive, qual è la risposta? Devo dire sono state delle bellissime serate, tantissimo pubblico, e quindi vuol dire che c'è un pubblico che ha voglia di vedere dei bei film, ma soprattutto anche vuole attraverso il cinema delle occasioni per riflettere sui grandi temi dell'esistenza umana, il tema dell'immigrazione, dei profughi, comunque un tema che quest'anno e lo scorso anno insomma ha preso l'attenzione di ognuno di noi, insomma non c'è televisione che non ne parli, la ribalta mediatica è stata enorme, quindi e il pubblico si vede che ha voglia proprio di capire, di conoscere e soprattutto di riflettere su quelli che sono temi che poi riguardano la vita e l'esistenza di ognuno di noi. Senti Stefania, c'è la possibilità di avere anche gli autori ospiti del festival, e quindi la possibilità di incontrare il pubblico? Sì, ci sono degli autori, ci sono gli autori di libri, presenteremo per esempio in chiusura un documentario molto bello di Lucio Cinecittà, Giusture, il 31 luglio, che consiglio a tutti di vedere, e naturalmente ci sarà il regista Marco Santarelli, anche il produttore del film Rino Sciarretta, quindi avranno anche un incontro con il pubblico. Per il programma, per saperne di più, in rete dove si può cercare, Stefania? Allora, si può cercare sul nostro sito, che è guerreepacefilmfest.it, e naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook, Guerre e Pace Film Fest, quindi invitiamo tutti a seguire, ci sono le schede dei film, dei documentari, dei libri, ma anche i trailer, quindi si può anche fare una scelta consapevole del film che si vuole venire a vedere. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per cui consigliamo a tutti di venire anche un po' prima rispetto all'orario indicato. Senti Stefania, rispetto alle aree di conflitto, ci sono delle zone su cui avete dedicato maggiore attenzione? Le zone sono, quest'anno è proprio un'attenzione all'Europa, quindi a quello che succede in Europa, cioè le migliaia di profughi e di immigrati che si riversano in Europa, che naturalmente vengono da zone di conflitto come l'Iraq. Infatti per esempio abbiamo presentato Titan, Una nuova vita, che è proprio la storia di questo ragazzo curdo che dall'Iraq parte per poter raggiungere Londra e naturalmente rimane imprigionato a Calais, che è l'inferno che tutti conosciamo. Sì. Stefania, io ti ringrazio, buon proseguimento, a risentirci presto. E io ringrazio voi perché ogni anno, insomma, ci seguite e ci date l'opportunità di far conoscere il nostro programma ai vostri spettatori. Bene, allora alla prossima Stefania, un abbraccio. Grazie, un abbraccio anche a voi. Ciao. Stefania Bianchi, direttrice della 14ª edizione del Guerra e Pace Film Fest a Forte San Gallo di Nettuno, provincia di Roma, in pieno corso di svolgimento, è cominciato il 25 e andrà avanti fino al 31 luglio. Con questo terminiamo la puntata settimanale di Visionari, che torna giovedì prossimo per l'ultima prima della pausa estiva. Ci avete ascoltato in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal sito internet della radio su ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per saperne di più sulla trasmissione potete cercare sia sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.